Allora, stasera siamo al Locomotive perché appunto c'è questa data bolognese per presentare il vostro disco che arriva dopo 3 anni di silenzio circa, giusto? Sì. Cos'è successo in questi 3 anni? Silenzio. Altri 3 anni di tre anni di silenzio. silenzio. No, vai, Gara, non so. Ma è uguale, siamo. Che è successo? Tante cose, diciamo che ci siamo presi un attimo di pausa, che però in realtà non è stata proprio una pausa, perché poi abbiamo continuato a suonare in giro, quindi abbiamo continuato ad accumulare quelle che erano un po' di esperienze, continuato a vivere. Di fatto poi la musica è un qualcosa che per noi è fondamentale, e che però ancora diciamo, per poterci permettere di farla dobbiamo fare tutti lavorare e avere altre vite, no? Molto spesso anche parallele, e quindi nel frattempo tante cose sono andate avanti, e era arrivato un po' il momento forse di fare un po' un punto della situazione, di scattare un po' un'istantanea di questi 3 anni, tutte le cose magari che sono, no? Magari sono successe cose belle, di cui rendersi conto, e da fissare, insomma, le canzoni, cose magari meno belle da affrontare, a cui cercare di dare un senso, a cui anche resistere. Quindi c'è stato un po' tutto questo, ed eccoci qua con, almeno per ora, un po' una fotografia di quello che abbiamo attraversato in questi anni. Quindi siete carichi di tornare live di Ma tutto ciò? molto carichi, abbastanza Sì, carichi, dai, la poi. serata è particolare, Sì. come diciamo, però dai, ci Ce la metteremo carichiamo, tutta, ce la ma poi siamo facciamo, ce la comunque sempre facciamo. carichi, dai. Sì, poi ci Carichi. sono tutti amici, è sempre favoloso. Non. Riparte un po' suonare live è un po' la nostra dimensione, quindi è quello che più ci rispecchia. Chiaramente stasera ci abbiamo un motivo in più per avere un po' di carica, anche per Giangi, che è quello che ci ha costretto a suonare, tra l'altro, quindi ce ne sarà ancora un po' di più, e con l'abbraccio anche di quelli che ce ne daranno una mano a portare a casa e a fare le canzoni dall'inizio alla fine, speriamo. E quindi dai, sì, siamo carichi. In che senso vi ha obbligato a suonare? Perché questa band qui più o meno nasce nel lontano 2000 e 2015. 2015, più o meno tra i No, banchi. ma suoniamo comunque da Sì, prima, no? diciamo che suoniamo da prima, più o meno la nostra esperienza, chiamiamola così, la nostra esperienza musicale insieme nasce tra i banchi di scuola, quando Giacomo voleva più band di quelle che già aveva, perché lui già aveva altre band, e quindi ha detto: va bene, tu suoni la chitarra, tu suoni il canti, tu suoni la chitarra, tu suoni il basso, e faremo una band e inizieremo a suonare. Ok, va bene. Ci ha letteralmente obbligato a suonare Sì, in. io ho fatto la prima prova e avevo comprato la chitarra tipo la settimana prima, una roba del genere. Basta. Ok, il titolo è di questo ultimo disco, almeno per ora, che arriva a 10 anni più o meno dal vostro inizio, dal vostro debutto circa, possiamo dire, Sì, 2015, no? 2015-2025. E siete anche arrivati come un'altra band da Perugia. Riguardo a questo, voi come vi collocate? Perché non è facile, arriva un'altra band e dice: noi siamo quelli che arrivano da Perugia. E voi? Se possono di parolacce qui? A Certo. noi in realtà non ce ne frega un cazzo, E cioè. vai, era quello che Anzi, volevo sentire. però È solo è bello. solo bello, e i ragazzi, l'altra band, cioè la band di Perugia, L'altra band, non li diciamo più. sono amici, anzi, sono il primo appoggio nel momento in cui c'è da chiedere un consiglio, cioè per noi è solamente una fortuna. Quindi, Quindi Perugia comunque è una città viva a livello musicale. città piccola in cui tutti ci conosciamo, e cerchiamo anche di tenerla viva il più possibile. Sai, è un po' complesso da dire, perché le altre realtà, a parte che sono lontane almeno dal nostro vissuto quotidiano, città grandi come Roma, come Bologna, quindi io non so, non posso fare un paragone perché non le conosco così a fondo, però diciamo che noi ci difendiamo sempre a Perugia, dai. Noi per adesso siamo contenti di quello che c'è a livello musicale. Se può essere sempre meglio, però va bene così, Ma non no? ci lamentiamo, No, non ci giustamente. lamentiamo per niente per adesso. A proposito di Non ci lamentiamo, almeno per ora anche nei titoli dei singoli, ha una vena, io non la definirei pessimista, ma forse un po' realista. Una cosa che stiamo vedendo anche in tanti dischi che stanno uscendo in questo periodo, un po' non essere rassegnati, ma dire regà, la situazione è un po' questa, cioè c'è un po' di malinconia forse, no? Esatto, volevo chiedere un po' in almeno per ora qual è il sentimento che prevale forse e cosa raccontate in realtà in queste 11 tracce, se non sbaglio. Io non so, ma quello dei numeri. Il sentimento che prevale, non lo so. Boh, tu c'hai idee sul sentimento che prevale? Ma diciamo che sì, è un disco cupo comunque, sì, di base. Forse sia la paura, se vogliamo dire sentimento, paura però, come sentimento. L'importante è sempre ricordarsi del fatto che la musica un po' per noi è quello che ci aiuta a resistere, anche nei momenti che sono magari più... in cui uno ha paura, in cui uno magari potrebbe anche provare un po' di rassegnazione, probabilmente nel momento in cui saremo rassegnati non usciranno più dischi, mentre ancora forse abbiamo voglia di combattere, di dare un po' in senso a quello che succede, e che magari siamo contenti se magari può essere un appiglio anche per altre persone che ascoltano le nostre canzoni. Quindi insomma, c'è dentro tutto questo, sicuramente c'è realismo, perché sì, poi la cosa principale è questa, è il realismo, è la fotografia di quello che per noi sono stati questi 3 anni, di quello che è la nostra situazione, di quello che è il rapporto nostro con la musica, della nostra vita con questo sistema musicale, ecco, e anche altro, però ecco, sicuramente sì, malinconia forse perché siamo abbastanza cupi come persone forse in musica, ecco, però la realtà, il realismo probabilmente è il sentimento principale. Ragazzi, vi faccio l'ultima domanda io. Raccontatemi un attimo il processo creativo della band e se è cambiato in qualche maniera dall'inizio, quindi avere un project manager che vi dice esattamente cosa dovete fare, che ruolo dovete avere, o se ci sono stati degli sviluppi, o se siete seguiti lo stesso flusso degli inizi nel creare. Nella parte artistica diciamo che siamo sempre stati e siamo tuttora e spero saremo per sempre abbastanza liberi, cioè liberi nel senso noi ovviamente ci sono delle tempistiche da rispettare, ma a parte che noi ce le davamo lo stesso, sì, comunque, eravamo già abbastanza inquadrati, okay, ce le davamo e non le rispettavamo, come adesso ce le danno e noi rispettiamo più o meno la stessa roba, siamo totalmente liberi a livello artistico, ecco. Poi dal punto di vista progettuale qualcosa è cambiato, ci sono altre realtà che ve le lascio presentare così che io mi scordo tutto. Non so cosa vuoi dire, altre realtà di cosa? Se parliamo di processo creativo nasce, vabbè, però il processo creativo, sì, cioè, alla fine siamo sempre noi, siamo noi, cioè, esatto, come project manager intendevo il membro della band che vi ha detto tu fai la chitarra, tu fai sono cinque teste che devono comunque mettere insieme qualcosa e devono racchiudere l'idea di ognuno di noi. E la cosa bella è che ogni volta che si rinizia si rimette in discussione di nuovo tutto, si riparte sempre da zero, però alla fine nel nostro costruisci, distruggi, per adesso qualche disco è uscito. Bene, almeno per ora. Almeno per ora. Grazie ragazzi, non vi dobbiamo più tempo e grazie, ci vediamo sotto palco. Grazie a voi.